Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Oggi apro con Lady Gaga. Ha annullato le date dei suoi concerti, compreso quello milanese del prossimo 26 settembre. La pop star soffre di fibromialgia e ha promesso via Twitter di raccontare in un documentario il forte disagio con cui quotidianamente deve fare i conti a causa di questa malattia, che si presenta con dolori diffusi un po' in tutto il corpo, associati a stanchezza, disturbi del riposo notturno, mal di testa, difficoltà di concentrazione. La causa al momento rimane ignota. La diagnosi spesso difficile perché non vi è alcun esame di laboratorio o radiologico per individuarla. A Obiettivo Salute il professor Carlo Selmi, responsabile di reumatologia all'Istituto Humanitas e docente all'Università di Milano. La fibromialgia è una malattia in cui c'è una sensibilità particolare al dolore, un dolore che anziché parlare grida. In realtà la fibromialgia però è molto di più, è una malattia che colpisce prevalentemente il sesso femminile, soprattutto le donne in giovane età, prima della menopausa, e che si caratterizza anche per tutta un'altra serie di manifestazioni meno ovvie, come i disturbi del sonno o anche i disturbi intestinali. La terapia si deve basare su un approccio multidisciplinare che comprenda sia una gestione cosiddetta cognitivo-comportamentale attraverso un percorso psicologico, ma anche e soprattutto forse l'attività fisica, il calo di peso e l'attività fisica a basso impatto. E questo è l'unico approccio che nel medio termine può cambiare la gestione di questa condizione. Se volete saperne di più, sulle pagine di Obiettivo Salute trovate l'intervista al professor Carlo Selmi e il link ai siti delle associazioni. Sono stati appena presentati all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano i risultati di uno studio con la più ampia casistica italiana che conferma la validità della sorveglianza attiva in pazienti con diagnosi di cancro iniziale alla prostata. Nel 2016 nel nostro paese si sono verificati circa 36.000 casi, ma di questi almeno un terzo è di natura indolente, di conseguenza non deve essere trattato ma osservato nel tempo con attenzione, come una sorta di sorvegliato speciale. A Obiettivo Salute il professor Riccardo Valdagni, direttore del programma Prostata all'Istituto dei Tumori di Milano. Per sorveglianza attiva intendiamo, in un tumore alla prostata non aggressivo e di piccole dimensioni, di evitare un trattamento curativo a fronte di questa non aggressività o di indolenza, come diciamo noi, e di rendere il paziente un sorvegliato speciale che viene visto due volte all'anno, che fa 4 PSA all'anno, e poi di solito dopo un anno, dopo 4, dopo 7, dopo 10 anni rifà le biopsie. Se le analisi mostrano una stabilità del quadro, e cioè una non aggressività del tumore, il paziente prosegue senza le terapie curative inutili in questo caso e soprattutto fa una vita dal punto di vista di qualitativo assolutamente uguale e senza gli effetti collaterali dei trattamenti. Per saperne di più potete ascoltare come sempre l'intervista integrale al nostro esperto sulle pagine del programma. Se vuoi smettere, inizia a correre. Secondo le ultime ricerche, correre potrebbe essere proprio la strada giusta per smettere di fumare. Bene, nella diretta Facebook di oggi parliamo proprio dei metodi per smettere e delle ultime ricerche sulle sigarette elettroniche di vecchia e nuova generazione. Non scappate, vi aspetto. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Io invece vi aspetto su Facebook. Noi ci sentiamo domani alle 12 quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.